Il punto di Stefano Folli. Sui matrimoni gay Monti sembra aver detto una parola definitiva, di quelle che non si prestano a compromessi successivi. No assoluto, perché il matrimonio è fondato sull'unione di un uomo e di una donna. L'elettorato cattolico sarà contento e in ogni caso la posizione di Monti adesso è nitida, senza sfumature. Tutto si complica quindi per il dopo elezioni, per la buona ragione che il matrimonio gay è una delle richieste in apparenza irriducibili di Vendola. Ma si era già capito che Bersani si illude se pensa di mettere sullo stesso piano dopo il 25 febbraio uno a sinistra e l'altro a destra, Vendola e Monti. Da oggi le alleanze di centro-centrosinistra sono più difficili. Il Premier rende più competitiva la sua proposta anche su terreni che esulano dalla sfera economica e la battaglia per conquistare l'elettorato moderato continua.